2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024@radio24.it. Questa è una puntata speciale per questo weekend natalizio. Per alcuni anche i prossimi giorni saranno giorni di vacanze, magari alcuni avranno la possibilità di avere un po' di tempo a disposizione, allora vi consigliamo di andare a riascoltare alcune delle puntate del nostro anno, di questo 2009, tanti temi interessanti. Oggi ve ne proporremo alcuni, quindi avrete la possibilità di ascoltare un breve stato, ma naturalmente molto sintetico, di alcune tra le interviste più interessanti. Dicevo del nostro archivio, trovate tutte le nostre puntate su www.radio24.it. E se non siete abbonati al nostro servizio podcast, beh, anche in questo caso i giorni di vacanza o comunque di pausa di questo periodo possono dare la possibilità ad alcuni di concentrarsi sul podcast, che è un sistema molto utile per scaricare contenuti audio e anche le nostre trasmissioni. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito internet oppure inviateci una email, 2024, scritto in cifra 2024@radio24.it. Dicevo, alcune delle interviste più interessanti di questo 2009. Marco Pifferi è un programmatore e ha inventato uno dei programmi, una delle applicazioni più scaricate per l'iPhone. Si intitola e si chiama Around Me. Marco Pifferi è a 2024, eccolo con noi, grazie di essere con noi, benvenuto. Grazie. Dicevo, tu sei, ti offendi se dico un programmatore? No, assolutamente no. Sei un programmatore e fino a qualche tempo fa, fino a un paio di anni fa, il tuo mondo era relativo e limitato, se possiamo così dire, al mondo dei computer e dei Mac in modo particolare, giusto? Sì, esatto. Cioè, in realtà io fino all'avvento dell'iPhone mi occupavo di sviluppo di applicazioni per Mac, quindi assolutamente niente a che fare col mondo della telefonia mobile, eccetera. Le cose sono cambiate quando è arrivato il telefono dell'Apple. Tu mi dicevi che è stato naturale per una persona che sviluppava e faceva programmi per il Mac cominciare almeno a pensare di fare applicazioni per l'iPhone. È così facile? Allora, sviluppare per l'iPhone in generale è facile, è molto semplice. Se poi si era già sviluppato in precedenza per il Mac, la piattaforma è molto simile, quindi viene abbastanza naturale. Sommando a quello il fatto che poi uno che ha un Mac sicuramente un giorno avrà un iPhone, la cosa che viene voglia di fare immediatamente è provare a scrivere un'applicazione, quindi queste sono un po' le componenti. Tu, mettendo assieme alcune caratteristiche degli smartphone e nel tuo caso dell'iPhone, hai realizzato una delle applicazioni più scaricate, più diffuse nel mondo. L'applicazione si chiama Around Me, che tradotto in italiano significa attorno a me. Che cosa permette di fare? Cioè, qual è lo scopo e l'idea che tu hai avuto con Around Me? L'idea è quella di cercare che cose che sono appunto intorno a me, utilizzando alcune caratteristiche tipiche dell'iPhone, che sono appunto il GPS, che permette di capire all'iPhone dove si trova in quel momento, la connessione ad internet, che è sempre presente normalmente negli iPhone, quindi permette di accedere a tutti i dati che sono presenti su internet, e come terza cosa un certo tipo di interfaccia molto semplice per l'iPhone, che permette di ricercare in maniera molto semplice, cliccando soltanto un paio di volte, alcune cose specifiche. Nel caso specifico dell'applicazione Around Me, l'intera applicazione è suddivisa in categorie, quindi per cercare il bar più vicino è sufficiente cliccare, lanciare l'applicazione e cliccare sulla categoria bar. Questo diciamo un po' il concetto, l'unire queste tre componenti che a me sembravano importanti, che sono una delle prime volte unite insieme in un unico dispositivo mobile che sta in tasca. A uno verrebbe da chiedersi: hai fatto la lista di tutti i bar, di tutte le farmacie, di tutti i ristoranti, gli alberghi, eccetera, eccetera, di tutte le categorie che tu hai inserito in Around Me in tutto il mondo? Ti sei messo lì a fare la lista? Ovviamente no, come dicevo prima, l'applicazione utilizza i dati su internet. In questo caso Around Me utilizza i dati di Google che sono presenti praticamente a livello mondiale, quindi l'applicazione funziona in tutto il mondo. In generale, qual è il tuo parere su questo mercato? Esiste concretamente la possibilità di creare nuove professionalità e nuovi professionisti che possono vivere programmando per smartphone? Assolutamente sì, il mercato è enorme già attualmente, è assolutamente in sviluppo perché ogni giorno ci sono centinaia di applicazioni nuove. È così semplice iniziare a sviluppare che veramente chiunque può con un'idea può iniziare a provare a farlo con costi assolutamente bassissimi, quindi è veramente alla portata di tutti e chiunque con una buona idea si può inventare una nuova applicazione e magari anche una nuova professione. Stiamo parlando di abbiamo detto il mercato delle applicazioni, ma nello specifico di quel settore che gli esperti chiamano della geolocalizzazione. Allora vorrei lasciarti un minuto per magari dire agli ascoltatori qual è la tua visione della geolocalizzazione, cioè che cos'è la geolocalizzazione, che cosa permette di fare. Il tuo programma certo è un esempio, ma dal tuo punto di vista quali sono le possibilità che il GPS, la connessione a internet eccetera eccetera ci danno e ci daranno nel futuro? Beh, prima di tutto bisogna dire che la cosa importante della geolocalizzazione più internet insieme, per la prima volta possono essere utilizzati sul campo, cioè questo tipo di dati erano già disponibili chiaramente sui computer, però non è la stessa cosa ad avere gli stessi dati per la strada, eccetera. Quindi questo è il punto importante. Si aprono quindi delle nuove possibilità che potrebbero essere applicazioni come la mia che ricerca cose che si trovano nelle vicinanze, oppure una possibilità che vedo nel futuro è quella di magari un'applicazione che potrà cercare un certo tipo di prodotto e in base al tipo di prodotto scelto, che potrebbe essere per esempio un televisore, proporre i negozi nelle vicinanze e visualizzare anche i prezzi di questi prodotti. Si apre chiaramente anche un mercato interessante per eventuali un nuovo tipo di pubblicità che permetterà di fare uno sconto finalizzato alla posizione dove ci si trova. Cioè, io sto cercando questo televisore, posso avere l'elenco dei negozi nelle vicinanze che lo vendono. In più, un certo negozio potrebbe farmi una forma di promozione, un coupon o qualcosa del genere per dirmi: se vieni da me, io ti faccio questo sconto. Senti, il tuo mercato, questo è un altro aspetto interessante, è il mondo, giusto? Tu sei italiano, piemontese se non sbaglio, però il tuo mercato di riferimento è il mondo. Esatto, sì. Questo è un altro, secondo me, punto molto interessante relativo allo sviluppo delle applicazioni per iPhone, piuttosto che per telefonia in generale. Il fatto che alla fine gli utenti di queste applicazioni sono utenti che risiedono in tutto il mondo, perché la diffusione di questi store è mondiale, quindi il mercato di riferimento è quello. Cosa manca, se manca qualche cosa, ai telefoni di oggi che vorresti come programmatore ci fosse nei telefoni di domani? A livello tecnico chiaramente la cosa più interessante è la cosa più importante è una maggiore potenza di calcolo, cosa che non è più così critica nell'ultima generazione di telefoni, quanto può essere ancora critica invece la qualità delle connessioni dati, perché le connessioni 3G non sono sempre il massimo e spesso sono legate a contratti che sono complessi, costosi e difficili da gestire. Grazie per essere stato con noi, per essere venuto nei nostri studi. Buon lavoro, a presto. Grazie. E adesso per 2024 c'è una breve pausa, riprendiamo tra circa un minuto. Un altro dei temi di cui abbiamo parlato molto 2024, di cui sicuramente riparleremo anche nel 2010, riguarda i pagamenti elettronici. Potremmo aggiungere anche i micropagamenti. Questo è un settore in forte espansione, ci saranno novità molto interessanti nei prossimi mesi, ma già in questi ultimi mesi, in questo autunno-inverno 2009, abbiamo visto alcune sperimentazioni, alcuni test importanti e anche alcune novità commerciali che riguardano i pagamenti elettronici, le tecnologie che permettono di creare sistemi di pagamento sempre più flessibili, veloci e sicuri. Ci sono due grandi settori, quello delle carte di credito e l'evoluzione delle carte di credito, ma c'è l'altro grande settore dove gli esperti ritengono ci sarà l'espansione più interessante, cioè i pagamenti legati alla telefonia mobile, legati al cellulare come strumento di pagamento. Però di questo abbiamo parlato con Diego Mortillaro, che è presidente di OneBip. Voi siete una società che si occupa di sistemi di pagamento. Il vostro è un sistema per acquistare online, giusto? Corretto. Il sistema che avete scelto, che avete pensato, è il telefonino. Quindi, traducendo ai minimi termini, utilizzare con il vostro servizio, io posso utilizzare il telefonino per acquistare invece dei soldi. Poi in realtà i soldi ci sono dietro il telefono, giusto? Sì, è corretto. OneBip è un sistema di pagamento per effettuare acquisti online utilizzando come strumento finanziario il credito che è presente nel telefonino, sia esso credito della carta prepagata o sia bolletta che l'utente riceve a fine mese. Quindi il punto forte di OneBip è quello di consentire di effettuare dei pagamenti online senza avere bisogno né della carta di credito né del conto corrente bancario. Esistono, diciamo, due mondi quando pensiamo al telefonino come sistema di pagamento. Abbiamo parlato in passato del telefonino che in qualche modo è un'estensione di quello che già conosciamo, quindi della carta di credito, dei sistemi bancari, una estensione che può essere o con un'applicazione software oppure con un'applicazione, chiamiamola hardware. Si è parlato in passato, ci sono delle sperimentazioni, anche se appunto siamo ancora a livello di sperimentazione, del telefonino che si sostituisce fisicamente alla carta di credito, quindi ha un chip a bordo, io avvicinando questo chip a un apposito lettore utilizzo il telefonino come una carta di credito. Voi fate parte dell'altro mondo, chiamiamolo così, che sì, è svincolato dal... Sì, il nostro mondo è svincolato dal possesso di una carta di credito o dal collegamento del telefonino ad altri strumenti finanziari come il conto corrente bancario o postale. Diciamo che tipicamente la classificazione che veniva fatta prima è corretta. Esistono molti sistemi sul mercato che utilizzano il cellulare come strumento dispositivo per autorizzare un pagamento che poi in realtà viene eseguito su un altro strumento finanziario che l'utente ha a propria disposizione. Con OneBip invece non è necessario questo, perché si può utilizzare il credito del cellulare per effettuare il pagamento. Quindi dal punto di vista dell'esperienza dell'utente finale, un rapporto diretto tra il cellulare e il pagamento senza dover necessariamente collegarsi al conto corrente della banca o collegarsi allo strumento della carta di credito. Quindi io potrei non avere un conto bancario o una carta di credito? Assolutamente, anzi, noi ci rivolgiamo proprio a quell'utenza che tecnicamente è l'utenza cosiddetta unbanked, che non ha accesso o non vuole avere una carta di credito, non ha un conto corrente, ma vuole comunque con la capacità finanziaria del proprio cellulare effettuare degli acquisti. Una domanda sul mercato. Per quale motivo voi pensate che questo sia o sarà un mercato interessante, o meglio, due mercati, quello della telefonia mobile, perché di fatto anche se gli acquisti vengono fatti online, però come abbiamo detto lo strumento è il telefonino, e soprattutto l'altro mercato, cioè quelli che non hanno rapporti con le banche, col sistema finanziario classico, tradizionale? Ma OneBip si rivolge, questo anche diciamo una serie di analisi di mercato interne che abbiamo condotto, si rivolge innanzitutto all'utenza giovane, quindi persone che non necessariamente sono maggiorenne ma che sono presenti sull'online e hanno forte capacità di spesa e che tipicamente non hanno un conto corrente bancario, e poi si rivolge a tutto un segmento di utenti nuovi che sono i cosiddetti immigrati, presenti in Italia in diverse milioni di persone, che non necessariamente hanno un rapporto diretto con la banca o per i quali certe volte avere un rapporto diretto con una banca non è così facile. Quindi quest'utenza è l'utenza che tipicamente non ha o non vuole la carta di credito, ma che ha una capacità di spesa e ha delle esigenze di spesa. Voi siete un'azienda italiana, ma il vostro mercato non è l'Italia. Cioè, o comunque, ma noi siamo molto forti in Italia, nel senso che l'Italia rappresenta circa il 50% del nostro mercato, però siamo presenti in totale in 50 paesi nel mondo, copriamo i principali mercati europei, alcuni mercati asiatici, Sud America e poi tutto il Nord America. Ecco, perché per funzionare il vostro sistema deve in qualche modo collegarsi all'operatore. Noi siamo integrati oggi con oltre 250 operatori di telefonia mobile nel mondo. È chiaro che, essendo un sistema online che consente pagamenti anche tra soggetti, quindi peer-to-peer, la presenza territoriale e l'integrazione col massimo numero di operatori telefonici mobili per noi è fondamentale. Se un giorno un utente vuole inviare dei soldi dall'Italia al suo corrispondente, al suo amico in un altro paese europeo, essere collegati con entrambi gli operatori telefonici per noi è fondamentale. Quindi non solo per effettuare pagamenti serve questo sistema, ma anche per trasferire denaro su altri conti. Sì, OneBeep ha un vero e proprio portafoglio di offerta di prodotti che sono i pagamenti, sono i trasferimenti peer-to-peer, sono i trasferimenti di denaro internazionali e sono tutte le operazioni tipiche che ogni utente può fare se avesse un conto corrente. Sì. Come funziona il sistema? Io vado su un sito internet, abbiamo detto che per il momento questo sistema permette di effettuare pagamenti solo online, quindi acquistando da servizi che vengono erogati via internet. Vado su uno store, quindi su un negozio online, voglio comprare una canzone oppure qualsiasi, anche un prodotto che poi mi viene spedito a casa. A quel punto cosa succede? Beh, a quel punto l'utente avrà tipicamente fatto la sua operazione di checkout, quindi troverà diverse opzioni di pagamento. OneBeep sarà una di quelle operazioni che lui, se vorrà, potrà scegliere. C'è un processo di apertura di conto OneBeep nel caso in cui l'utente non sia già nostro cliente, con un opt-in, quindi un'autorizzazione del cellulare a fine di sicurezza, di garantire che chi apre il conto e richiede il pagamento sia l'effettivo proprietario del telefono, e poi il pagamento viene autorizzato con un semplice click. Se invece l'utente era già un cliente OneBeep, una volta che ha cliccato sull'opzione OneBeep, con un click completa il pagamento. Riceverà un SMS che gli confermerà l'addebito, oltre un'email che gli darà tutti i dettagli dell'acquisto appena effettuato e automaticamente gli verrà dato accesso al prodotto acquistato. Quindi voi, oltre che con gli operatori di telefonia mobile che devono autorizzare questo pagamento sul telefono che io ho associato questo conto, dovete anche fare accordi con gli esercenti, con quelli che vendono online. Sì, noi svolgiamo un ruolo tra tre soggetti: l'utilizzatore finale che ha il cellulare e che ci chiede di poter addebitare il cellulare per un pagamento, l'operatore telefonico presso il quale facciamo delle verifiche di sicurezza e di disponibilità del credito, e l'esercente, che è colui il quale incasserà i soldi e darà il prodotto a chi l'ha acquistato. Oggi ci sono oltre 2000 siti che hanno degli accordi con noi, più altrettanti siti di piccole dimensioni, tipicamente di utenti che sono all'interno di grandi social network che vendono prodotti propri. Tipo la banda musicale del ragazzo che vuole vendere i suoi file MP3, o lo scrittore in erba che ha scritto un romanzo e vuole provare a venderlo in versione digitale o cose di questo genere. E con gli operatori, facciamo un esempio sull'Italia, con tutti e quattro gli operatori avete... Noi siamo attivi con tutti e quattro gli operatori. L'Italia anche con gli operatori virtuali? Oggi non siamo attivi con gli operatori virtuali, è una delle aree nelle quali ci vorremmo estendere. Fino ad oggi il loro mercato è stato un mercato di nicchia, ma cominciamo a vedere che ci arrivano diverse richieste da clienti degli operatori virtuali per poter utilizzare OneBeep anche con la loro SIM, quindi sicuramente in futuro faremo accordi anche con loro. Dicevo che ci sono state alcune recenti novità normative, adesso senza entrare nel dettaglio della normativa, che cosa pensate possa cambiare per operatori come voi nei prossimi anni o anche nei prossimi mesi? Ma sicuramente la normativa porta grande beneficio alla nostra industria, perché chiarisce tutta una serie di aspetti che erano ancora non definiti. Chiarisce la possibilità di utilizzare il credito telefonico per acquisti oltre che di prodotti digitali anche di prodotti fisici, e offre la possibilità a operatori come noi di aggiungere un portafoglio di servizi finanziari che fino ad oggi non avremmo potuto rendere. Quindi, quando si faceva l'esempio dei trasferimenti di denaro internazionale piuttosto che dei trasferimenti di denaro peer-to-peer, piuttosto che voler pagare la bolletta o cose di questo genere, sono tutti servizi che chiaramente la nuova normativa ci consentirà di svolgere. Gli operatori di telefonia mobile potrebbero cominciare a fare questo business? Ma dirò che in alcuni paesi l'hanno già fatto. Esiste un elemento fondamentale che differenzia la nostra offerta, cioè il fatto di funzionare su tutti gli operatori mobili, e quando parliamo di servizi di trasferimenti peer-to-peer è un elemento essenziale. Certo. Spesso gli operatori di telefonia mobile si sono avvicinati a questo settore, ma si sono resi conto che è molto complesso o loro non sono strutturati per poter svolgere questo tipo di business. Non dimentichiamoci che noi ci rivolgiamo, quando siamo online, a siti che, per quanto grossi, generano dei volumi che rispetto ai fatturati degli operatori telefonici sono, non dico insignificanti, ma meno rilevanti. Quindi l'operatore telefonico ha un ruolo che è quello di vendere voce, dati e servizi tipici di telefonia. Spesso in noi hanno visto un partner che gli ha consentito di avere garanzie nel rispetto di norme di sicurezza e di trattamento dei clienti, ma di raggiungere un mercato che loro direttamente non sono strutturati per poter raggiungere. Non le ho chiesto come fate i soldi in questo business pieno di denaro che gira e circola da una parte all'altra. Commissioni, così come succede nel classico? Commissioni, noi siamo tipicamente una società che vive di commissioni, quindi abbiamo tutti l'interesse che il sistema sia più trasparente e sicuro possibile, possa incentivare gli utenti finali all'utilizzo, e questo è quello di cui viviamo. Non abbiamo costi fissi, quindi se gli utenti pagano guadagniamo, se non pagano non guadagniamo. Diciamo, qualche costo fisso ce l'avrete, anche voi avrete un ufficio, qualche dipendente. Sì, no, dico costo fisso per l'utente finale, ecco, l'utente certo, non paga, non deve essere abbonato, non c'è nessun tipo di abbonamento. Forse in futuro faremo dei servizi premium che aggiungeremo al conto gratuito OneBeep, ma per oggi non ci sono dei costi associati per l'utente finale. Bene, grazie per essere stato con noi, grazie, buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. E come dicevamo poco fa, quello dei pagamenti elettronici è un settore che sicuramente vedrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni uno sviluppo molto interessante. C'è un grande dibattito su come riuscire a fornire strumenti di pagamento molto semplici, soprattutto per i micropagamenti, per poter creare un mercato digitale nel quale si possano comprare con facilità anche servizi a consumo molto veloce, che ne so, ad esempio alcune notizie che lette un giorno, il giorno dopo non servono più. Quindi sicuramente per far sviluppare un mercato del genere serve un sistema di pagamento molto facile da utilizzare, anche molto veloce. Finora quasi tutti i sistemi di pagamento, soprattutto online, richiedono comunque qualche minuto spesso, o comunque alcuni secondi, per poter essere portati a termine, mentre insomma nell'abitudine di tutti i giorni noi paghiamo ad esempio il caffè in un secondo, in pochissimo tempo. Ci fermiamo per qualche secondo giusto per concludere questo discorso che abbiamo fatto sui pagamenti elettronici via telefonino, quindi con il telefonino come strumento di pagamento. Il mercato è talmente interessante che addirittura il più grande produttore di telefoni al mondo, Nokia, ha annunciato quest'anno, ma inizierà presto soprattutto nei paesi in via di sviluppo, probabilmente in India, ha annunciato Nokia Money, un servizio simile, con alcuni concetti simili a quello che abbiamo raccontato fino a questo momento. Ci fermiamo per qualche minuto, questo è 2024, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci sentiamo tra poco. Questa è una puntata speciale di 2024, un saluto da Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Dicevo, una puntata speciale del nostro programma per questo lungo weekend natalizio, con alcune delle interviste più interessanti che abbiamo ascoltato nel corso del 2009. Se volete riascoltare la nostra puntata, beh, ci sono due modalità. La prima è andare sul nostro sito internet www.radio24.it. Nel nostro archivio trovate tutte le nostre puntate, anche quelle un po' vecchie, quindi potete fare una ricerca per parole chiave oppure scorrere l'archivio delle recenti puntate. Oppure un altro modo molto intelligente è quello di abbonarsi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo, settimana dopo settimana, avete la possibilità di scaricare il file MP3 della nostra trasmissione, tenerlo sul vostro computer o sul vostro lettore di file MP3 e riascoltarci quando preferite, magari anche a distanza di qualche giorno o qualche settimana. Tra le cose interessanti di cui abbiamo discusso nel corso del 2009 è un altro tema di cui dovremmo tener conto e molto spesso nei prossimi anni, è il ruolo dei motori di ricerca.